Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani. Settima puntata. La mattina dopo, lo confesso, per un momento fui tentato di andare a Rimini con Deslilier. Mi attirava soprattutto la corsa in macchina lungo la strada litoranea. Ma poi mi dissi, che cosa significava in concreto la proposta di Deslilier? E chi erano realmente le sorelle di Parma di cui mi aveva parlato? Due ragazze qualunque, da portare in pineta, come era facile. O due signorine di buona famiglia da intrattenere sulla spiaggia sotto i vigili occhi di un'altra signora Lavezzoli? In un caso come nell'altro, benché non fosse impossibile nemmeno una circostanza intermedia, dopo tutto, non mi reputavo abbastanza amico di Deslilier per accettare a cuor leggero il suo invito. Accettandolo, prevedevo una giornata piena di disgusto e di umiliazione. E del resto, perché mai Deslilier, il quale non mi aveva mai dimostrato né molta simpatia né vera considerazione, ad un tratto mi chiedeva, quasi mi supplicava, di accompagnarlo a donne? Ci teneva forse a far sapere che lui, con Fadigati, non ci stava per vizio, ma soltanto per pagarsi la villeggiatura, e che comunque gli preferiva sempre una bella ragazza? Finii col non andare. E poco più tardi, sulla spiaggia, scorgendo il dottore sotto l'ombrellone, abbandonato a una solitudine che mi parve a un tratto immensa, immedicabile, mi sentii intimamente ripagato della rinuncia. Io almeno non l'avevo ingannato, giunsi a pensare. Invitato ad associarmi a chi lo tradiva e lo sfruttava, avevo saputo resistere, conservargli un minimo di rispetto. A un certo punto mi venne in mente che un po' di compagnia gli avrebbe fatto piacere. Un attimo prima che raggiungessi l'ombrellone, egli si voltò. «Ah, è lei», disse, ma senza sorpresa. «È gentile da parte sua venire a farmi visita». Tutto in lui esprimeva la stanchezza e il dolore di un litigio recente. Nonostante che la sera prima, con ogni probabilità, si fosse lasciato strappare la promessa di rimanere, Deslilier era andato ugualmente a Rimini. Chiuse il libro che stava leggendo e lo posò su uno sgabello lì accanto, mezzo all'ombra e mezzo al sole. Non si trattava del solito libro giallo, bensì di un opuscolo sottile, ricoperto di vecchia carta fiorata. «Che cosa leggeva?» chiesi accennando all'opuscolo. «Versi? Guardi pure». Era una edizione scolastica del primo canto dell'Iliade, corredata di traduzione interlineare. «L'ho trovato nella valigia», disse. «Menina eide, teapeli adeo Achilleus», aggiunse con un sorriso amaro. Mio padre e mia madre arrivavano in quel momento, la mamma tenendo Fanny per mano. Levai un braccio per avvertirli della mia presenza e modulai il fischio di famiglia, la prima battuta di un lead di Schubert. Fadigati si volse, si alzò a metà dalla chaise longue, si levò il panama con deferenza. I miei genitori risposero assieme, mia madre chinando leggermente il capo e mio padre toccandosi con due dita la visiera del berretto di tela bianca, nuovo fiammante. Capii subito che erano scontenti di trovarmi in compagnia di Fadigati. Appena mi aveva visto, Fanny si era girata a chiedere qualcosa alla mamma, certo il permesso di raggiungermi, ma mia madre l'aveva visibilmente trattenuta. Com'è graziosa la sua sorellina, disse Fradicati. Quanti anni ha? 12, esattamente 8 meno di me, risposi imbarazzato. Ma loro sono in 3 fratelli, mi pare. Infatti, 2 maschi e una femmina, a 4 anni di distanza l'uno dall'altro. Ernesto, il secondo, è in Inghilterra. Che visetto intelligente, ripeté Fradicati, continuando a guardare in direzione di Fanny. E come le sta bene quel costumino rosa? È fortunata, sa, ad avere dei fratelli ormai grandi. È ancora molto bambina, dissi io. Oh, si vede, le avrei dato 10 anni, sì e no. Del resto, non vuol dire. Le ragazze si sviluppano tutte in una volta. Vedrà che sorpresa. Fa il ginnasio, non è vero? Sì, la terza. Scosse il capo, in atto di malinconica deplorazione. Come se misurasse dentro se stesso tutta la fatica e il dolore a cui ogni essere umano deve andare incontro per crescere, per maturare. Ma pensava già ad altro. «E i signori Lavezzoli?» domandò. «Ma credo che stamattina, per via della messa, non li vedremo prima di mezzogiorno». «Ah, è vero, oggi è domenica», disse trasalendo. Però, quando è così, soggiunse dopo un'altra pausa, mentre si alzava in piedi, venga, che andiamo a salutare i suoi genitori. Camminammo a fianco, sulla sabbia che già cominciava a scottare. Ho l'impressione, egli mi diceva frattanto, ho l'impressione che la signora Lavezzoli non abbia troppa simpatia per me. Ma no, non credo. Comunque, è sempre meglio, penso, approfittare quando non c'è. Assenti i Lavezzoli, mio padre e mia madre non riuscirono a perseverare nei loro chiari propositi di sostenutezza. Specialmente mio padre, che in breve avviò col dottore una conversazione della massima cordialità. Tirava un leggero vento di terra, il cosiddetto garbino, del tutto sgombro di vele il mare, sebbene il sole non avesse ancora raggiunto lo zenith, appariva già scuro, una coltre compatta, color del piombo. Forse perché, reduce dalla lettura del primo canto dell'Iliade, Fradicati parlava del sentimento della natura nei greci e, in particolare, del significato che bisognava attribuire, secondo lui, ad aggettivi come purpureo e violaceo, attribuiti da Omero all'acqua dell'oceano. Mio padre parlò a sua volta di Orazio e quindi delle odi barbare, le quali rappresentavano, in polemica assai quotidiana con me, il suo ideale supremo nel campo della poesia moderna. Conversavano tra loro tanto d'accordo, insomma, il fatto che Deslilliers non dovesse spuntare da un momento all'altro di qua dai capanni giovava evidentemente all'equilibrio nervoso del dottore, che quando la famiglia Lavezzoli, fresca di messa, sopraggiunse al completo verso mezzogiorno, Fradicati poté sentirsi abbastanza forte, abbastanza protetto, per così dire, da sopportare con disinvoltura le inevitabili frecciate della signora Lavezzoli e, anzi, da ribattere a qualcuna di esse con una certa efficacia. Deslilliers non l'avremmo più veduto sulla spiaggia, né quel giorno né i successivi. Dalle sue scorribande in macchina non tornava mai prima delle 2 dopo mezzanotte e Fradicati, lasciato solo a se stesso, ricercava sempre più sovente la nostra compagnia. Fu così dunque che, oltre a frequentare nelle ore antimeridiane la nostra tenda, a mio padre non pareva vero in fondo poter discutere con lui di musica, di letteratura, di arte, invece che di politica con la signora Lavezzoli, egli prese l'abitudine il pomeriggio, quando sentiva che io e i ragazzi Lavezzoli ci saremmo andati, di venire al campo di tennis dietro il caffè Zanarini. I nostri fiacchi palleggi a quattro, una coppia maschile contro una mista, non erano certo tali da entusiasmare. Se io me la cavavo mediocremente, Franco e Gilberto Lavezzoli sapevano appena impugnare la racchetta. Quanto a Cristina, poi, la loro bionda, rosea, delicata sorella quindicenne, usciva allora da un collegio di monache fiorentino e l'intera famiglia la portava in palma di mano. In veste di giocatrice valeva ancora meno dei fratelli. Si era lasciata crescere intorno al capo una piccola corona di capelli alla Angelo Musicante di Melozzo, come un giorno ebbe a definirla paternamente ammirando lo stesso Fadigati, e piuttosto che scomporne un solo ricciolo avrebbe rinunciato perfino a camminare. Altro che badare allo stile del drive o a far passare il backhand. Eppure, nonostante ciò, Fadigati sembrava appassionarsi moltissimo al nostro gioco, per scadente e noioso che fosse. Bella palla, fuori di un dito. Peccato. Era prodigo di lodi per tutti e aveva un commento, talora magari a sproposito, sempre pronto per ogni colpo. A volte, peraltro, il palleggio languiva un po' troppo anche per uno spettatore della sua indulgenza. «Perché non fate una partita?» proponeva. «Per carità», si schermiva subito Cristina arrossendo, «se non prendo una palla». Lui però non la stava a ascoltare. «Volontà e impegno», proclamava festoso. «Il dottor Fadigati premierà la coppia vincitrice con due superbe bottigliette di aranciata San Pellegrino». Correva al capanno del custode, ne tirava fuori una scranna tarlata e pericolante, alta almeno 2 metri, la trasportava a forza di braccia da un lato del campo, infine vi si arrampicava sopra. L'aria a poco imbruniva. Il suo cappello, controluce, appariva circondato da un'aureola di moscerini. Ma lui, appollaiato sulla sua gruccia come un grosso uccello, rimaneva ancora lassù, a scandire, uno dopo l'altro, i punti, con voce metallica, tenace ad assolvere fino all'ultimo il suo compito di arbitro imparziale. Non sapeva cosa altro fare, era chiaro, in che modo riempire il vuoto tremendo delle giornate. Come spesso accade sull'Adriatico, ai primi di settembre la stagione improvvisamente mutò. Piove un giorno soltanto, il 31 d'agosto. Il bel tempo dell'indomani, comunque, non ingannò nessuno. Inquieto, il mare era verde, di un verde vegetale, il cielo d'una trasparenza esagerata, da pietra preziosa. Nel tepore stesso dell'aria si era insinuata una piccola, persistente punta di freddo. Il numero dei villeggianti cominciò subito a calare. Sulla spiaggia le 3 o 4 file di tende e di ombrelloni si ridussero in breve a 2 e poi, dopo una nuova giornata di pioggia, a 1 sola. Anche i capanni dei vari stabilimenti venivano via via smontati. Avvolgersi indietro era divenuto possibile spaziare liberamente con lo sguardo sulle dune, fino a pochi giorni avanti ricoperte di una sterpaglia stenta e bruciacchiata, mentre adesso, come per miracolo, si vedevano punteggiate da una quantità incredibile di meravigliosi fiori gialli, alti sui gambi come gigli. Bastava avere un po' di pratica della costa romagnola per conoscere il significato di quella fioritura. L'estate era finita, oramai. Da quel momento non sarebbe stata più che un ricordo. Ne approfittai per mettermi a studiare. Contavo di dare l'esame di storia antica l'ottobre successivo, almeno quello, e perciò, fin verso mezzogiorno, rimanevo chiuso in camera a leggere le dispense. La stessa cosa facevo il pomeriggio, aspettando l'ora del tennis. Un giorno, dopo pranzo, mentre appunto stavo studiando. Non ero nemmeno andato sulla spiaggia quella mattina. Appena alzato, il lontano fragore del mare mi aveva distolto da ogni idea di bagno. Udii salire dal giardino la voce acuta della signora Lavezzoli. Non distinguevo le sue parole. Capivo però dal tono che era indignata di qualcosa. Eh no, lo scandalo di ieri sera riuscii ad afferrare. Con chi ce l'aveva? Perché era venuta a farci visita? Mi chiesi, irritato. E subito, istintivamente, pensai a Fadigati. Resistetti alla tentazione di scendere giù in tinello e di nascondermi a origliare dietro la porta che dava in giardino. Di lì a un'ora, ad ogni modo, quando mi affacciai, la signora Lavezzoli non c'era più. Mio padre sedeva sotto il solito pino, all'ombra. Non appena avvertii il rumore dei miei passi sulla ghiaia, alzò lo sguardo dal giornale. Ero vestito da tennis, con una mano tenevo la bicicletta dal manubrio e con l'altra la racchetta. Tuttavia mi domandò: «Dove vai?» Due estati prima, sempre a Riccione, avevo avuto una relazione con una trentenne signora milanese, conoscente occasionale di mia madre. Avevo appena preso la licenza liceale, era la prima volta che mi accadeva una cosa simile. In dubbio se essere fiero o preoccupato della mia avventura, mio padre non perdeva uno solo dei miei movimenti. Bastava che mi accingessi a uscire di casa o semplicemente mi allontanassi dalla tenda, subito lui mi lanciava un'occhiata fra timida e indiscreta. Ed ecco rispuntare nei suoi sguardi la stessa identica espressione di allora. Sentii il sangue montarmi alla testa. «Non lo vedi?» risposi seccamente. Distolse gli occhi dai miei. Oltre che inquieto, sembrava affaticato. La visita della signora Lavezzoli, che intuivo inaspettata, gli aveva impedito di fare l'abituale sonnellino pomeridiano. «Non credo che ci troverai nessuno», disse. «Era qui un momento fa la signora Lavezzoli. È venuta ad avvisare che quest'oggi i suoi ragazzi non ci vanno. I due maschi hanno da studiare e Cristina da sola non la manda». Dette un'occhiata a Fanny, accucciata in fondo al giardino a giocare da sola con la bambola. Di schiena, con le piccole scapole sporgenti sotto la maglietta, le treccine imbiondite dal sole, sembrava anche più gracile e immatura. Indicò infine la poltrona di Vimini di fronte alla sua. «Siedi un momento», fece, e mi sorrise incerto. Intendeva parlarmi, ma gli dispiaceva, era evidente. Finsi di non aver sentito. «È stata gentile a scomodarsi, ma vado lo stesso», dissi, voltandogli le spalle e avviandomi verso il cancello. «Ha scritto Ernesto», mi gridò ancora mio padre, lamentoso. «Non vuoi nemmeno leggere la lettera di tuo fratello?» Dalla soglia del cancello mi girai e in quell'attimo Fanny alzò il capo. Di lontano mi lanciò un lungo sguardo che mi parve di rimprovero. «Più tardi, quando torno», risposi e pedalai via. Prima di entrare nel recinto del campo di tennis, vidi subito Fadigati attraverso la rete metallica. Stava in piedi, accanto alla scranna dell'arbitro, rimasta là dal pomeriggio precedente, e fumava, guardando davanti a sé. Si voltò. «Ah, è solo», disse. «E gli altri?» Accostai la bicicletta alla rete metallica e mi avvicinai. «Oggi non vengono», risposi. Ebbe un debole sorriso, con la bocca storta. Mi accorsi a questo punto che aveva il labbro superiore piuttosto gonfio e che una lente dei suoi begli occhiali d'oro era attraversata da una doppia incrinatura. Non capisco per quale ragione, dissi fissandolo. Pare che Franco e Gilberto debbano studiare, ma mi sa di scusa. Comunque spero. Glielo dirò io, perché? Mi interruppe Fadigati amaramente. Sarà certo a causa della storia di ieri sera. Quale storia? Non mi venga a dire che non lo sa, sogghignò disperato. Va bene che stamattina al mare lei non l'ho visto, ma possibile che non ne abbia sentito parlare più tardi, magari a tavola, dai suoi genitori? Non mi fu difficile convincerlo del contrario. Avevo, sì, dissi, sentito fare dalla signora Lavezzoli la parola scandalo e spiegai come e quando, ma non sapevo altro. Allora, tornando a guardare altrove, egli cominciò a raccontare come la sera precedente, nel salone del Grand Hotel, davanti a tutti, avesse avuto una discussione con Deslilliers. Io lo rimproveravo, ma sottovoce, si intende, della vita che si era messo a fare in questi ultimi tempi, sempre in giro, con la macchina, tanto che, si può dire, non lo vedevo quasi più. E lui, a un dato momento, sa che cosa fa? Si alza e, pam, mi lascia andare un gran pugno in piena faccia. Si toccò il labbro gonfio. Qui, vede? Le fa male? Oh no, fece, alzando una spalla. È vero che sono finito a gambe levate e che lì per lì non ho capito più niente. Un pugno, in fondo. Che cosa vuole che conti? E lo scandalo anche. Che cosa vuole che conti? Lo scandalo. In confronto al resto. Tacque. E anch'io tacqui, pieno di imbarazzo. Pensavo a quelle parole. In confronto al resto. E avevo dinanzi l'immagine del suo dolore diamante vilipeso. Un'immagine, devo confessarlo, che più di impietosirmi mi repugnava. Ma lo avevo capito soltanto a metà. Alle una oggi, quando sono rientrato in albergo dalla spiaggia, riprendeva infatti Fadigati, mi attendeva la sorpresa più amara. Guardi qui cosa ho trovato su in camera. Cavò fuori dalla tasca della giacca un foglietto spiegazzato e me lo porse. Legga, legga pure. C'era poco da leggere, ma bastava. In stampatello, a lapis, non vidi scritto che «Grazie e tanti saluti da Eraldo». Ripiegai il foglietto in quattro e glielo restituii. «È partito, sì. Se n'è andato», disse lui. «Ma il guaio peggiore», aggiunse con un tremito del labbro gonfio e della voce, «è che mi ha portato via tutto». «Tutto!» esclamai. «Già, oltre alla macchina, che d'altronde era sua, l'avevo comprata apposta per lui, ha preso anche il rimanente. Vestiti, biancheria, cravatte, due valigie, un orologio d'oro, un libretto di assegni, un migliaio di lire che tenevo nel comodino. Non ha dimenticato proprio nulla di ciò che mi apparteneva. Nemmeno la carta da lettere intestata, nemmeno il pettine e lo spazzolino da denti». Terminò con uno strano grido, quasi esaltato. Come se, da ultimo, l'enumerazione degli oggetti rubati da Deslilliers avesse avuto l'effetto di tramutare il suo strazio in un senso più forte, di orgoglio e di piacere. Stava venendo gente. Due giovanotti e due signorine, tutti e quattro in bicicletta. «Sono le 5:15», gridò allegramente una delle ragazze, consultando l'orologino da polso. «Abbiamo fissato il campo per le 6, ma visto che nessuno gioca, possiamo entrare addirittura?» Io e Fadigati uscimmo dal recinto e prendemmo in silenzio per il vialetto di Robini e chiuso in fondo dal muro rosso del caffè Zanarini. Laggiù, nel cortile, Si vedevano camerieri andare e venire attraverso la pista da ballo di cemento, trasportando sedie e tavoli. Ed ora, chiesi, che cosa ha intenzione di fare? Vado via stasera. C'è un accelerato che parte da Rimini alle 9 e arriva a Ferrara circa a 12:30. Spero che mi sia rimasto tanto da pagare il conto dell'albergo. Mi fermai sui due piedi e lo fissai. Era vestito da città, col cappello di feltro e tutto. Dunque non è vero che Deslilliers gli abbia portato via ogni cosa, riflettei, osservando il cappello di feltro. Dunque, un po' esagera. Perché non lo denuncia? Buttai lì freddamente. Mi fissò anche lui. Denunciarlo, borbottò, sorpreso. Nei suoi occhi, ad un tratto, balenò un lampo di scherno. Denunciarlo, ripeté. E mi guardava come si guarda un estraneo un po' ridicolo. Ma le pare possibile?